ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Ma il piccolo e funesto lume di coscienza del tenente De Cunto? Pensavo, attendendo la cena nella cucina della vedova. È cosa rara, forse unica. Esso non mi era apparso in nessuna delle facce ottuse, maligne e avidamente soddisfatte delle mie nuove conoscenze sulla piazza. Le loro passioni, era evidente, non risalivano nella storia, non uscivano dal paese stretto dalle argille malariche, crescevano nel piccolo recinto fra quattro case, avevano l'urgenza e la miseria del bisogno quotidiano del cibo e del denaro, si rivestivano senza nascondersi del formalismo dei galantuomini, gonfiavano nello spazio costretto delle anime piccole e del paesaggio desolato fino a premere violente come il vapore del brodo lungo della vedova sotto il coperchio della pentola di terra che sentivo brontolare e soffiare su un povero fuoco di stecchi là nel camino. Guardavo il fuoco, pensando alla serie infinita dei giorni che mi si stendevano innanzi e nei quali, anche per me, l'orizzonte del mondo degli uomini sarebbe stato il cerchio di queste oscure passioni. E la vedova intanto disponeva sul tavolo il pane e la brocca dell'acqua. Era il pane nero di qui, fatto di grano duro, in grandi forme di 3 o di 5 chili che durano una settimana, cibo quasi unico del povero e del ricco, rotonde come un sole o come una messicana pietra del tempo. Cominciai ad affettarlo con il gesto che avevo ormai appreso, stringendolo e appoggiandolo al petto e traendo verso di me, attento a non tagliarmi il mento, il coltello affilato. La brocca, come quelle di Grassano e tutte quelle che là e qui le donne portano in capo, era un'anfora di ferrandina, di terra giallo-rosata, a stretture rigonfi come una immagine femminile arcaica, dalla vita sottile, dal petto e dai fianchi rotondi, con le piccole braccia ad ansa. Ero solo al tavolo, davanti alla tovaglia pesante di tela di casa, ma la stanza non era vuota. La porta di strada ogni tanto si apriva ed entravano delle donne, le vicine, le conoscenti, le comari della vedova. Venivano con vari pretesti, a portare acqua o a chiedere se dovessero lavare per lei domattina al fiume. Si fermavano lontane dal mio tavolo, vicino all'uscio. Stavano l'una vicino all'altra e parlavano tutte insieme come uccelli. Fingevano di non guardarmi, ma ogni tanto sotto i veli i loro occhi neri si voltavano rapidi e curiosi dalla mia parte e subito fuggivano come animali del bosco. Non ancora avvezzo al costume, un povero residuo di costume, che non ha nulla a che vedere con quelli famosi di Pietragalla o di Pisticci. Mi parevano tutte uguali, col viso incorniciato dal velo più volte ripiegato che ricade sulla schiena, con le semplici camicette di cotone, le larghe sottane scure a campana lunghe a mezza gamba e gli stivaletti alti. Stavano ritte, col portamento solenne di chi avvezzo a portare in equilibrio i pesi sul capo, e i volti avevano tutti un'espressione di selvatica gravità, gravi e senza grazia femminile erano i loro gesti, come le occhiate pesanti dei neri occhi curiosi. Non mi parevano donne, ma soldati di uno strano esercito, o piuttosto una flottiglia di barche tondeggianti e oscure, pronte a prendere tutto insieme il vento nelle piccole vele bianche. Le guardavo e cercavo di capire i loro discorsi nel dialetto per me nuovo, quando si batté all'uscio. Le donne presero congedo con un grande ondeggiare di sottane di veli e un nuovo personaggio entrò nella cucina. Era un giovane con dei minuscoli baffetti rossi, che portava un astuccio allungato di pelle marrone. Era mal vestito. Aveva le scarpe impolverate, ma aveva il colletto e la cravatta. E portava in capo un curioso berretto alto e tondo con una visiera di tela cerata sul tipo di quelli che un tempo avevano gli accademisti, dove sul fondo grigio spiccavano fiammanti su tutta l'altezza due grandi lettere ritagliate e cucite di panno vermiglio. U E. Ufficiale esattoriale, mi disse, quando gli chiesi che cosa significassero quell'U e quell'E giganteschi. E intanto, posato con riguardo l'astuccio, si sedette al mio tavolo, tirò fuori di tasca un pacchetto di pane e formaggio, ordinò alla vedova un bicchiere di vino e cominciò a mangiare. Era l'ufficiale esattoriale di Stigliano. Veniva spesso a Gagliano per i doveri del suo ufficio. Oggi aveva fatto tardi e avrebbe dovuto fermarsi a dormire dalla vedova. Aveva lavoro a Gagliano anche per l'indomani, non parlava volentieri del suo mestiere. Invece, con molta soddisfazione, mi mostrò subito il contenuto del suo astuccio. Era un clarinetto. Non se ne separava mai. Lo portava sempre con sé nei suoi viaggi alla caccia del denaro dei contadini. Aveva trovato quell'impiego. Bisogna pur vivere. Ma la sua ambizione era un'altra, era la musica. Non era ancora perfetto, studiava il clarino soltanto da un anno, ma si esercitava continuamente. Sì, poteva darmene un saggio, poiché io, si vedeva, ero un intenditore, ma un pezzo solo, perché voleva ancora uscire a far visita a un suo compare ed era tardi. Il pane e il formaggio erano finiti e non c'era altro da mangiare. Il clarinetto soffiava indeciso e fragile le note di una canzonetta. I cani l'accompagnavano brontolando. Appena il musicista esattore fu uscito e rimanemmo soli, la vedova si profferse in scuse per essere costretta a darmelo per compagno di stanza. Non si poteva fare diversamente. Ma è un giovane per bene, è pulito, non è un contadino. L'assicurai che mi sarei adattato volentieri alla sua compagnia. Ero ormai avvezzo a questi casuali compagni di una notte. A Grassano, quando abitavo alla locanda di Prisco, quasi ogni sera dovevo accogliere gente nuova nella mia camera. Le camere là erano due, ma quando una era piena si doveva ricorrere alla mia. E c'erano spesso forestieri di passaggio, perché Grassano è sulla grande strada e la locanda di Prisco è rinomata come la migliore della provincia, al punto che i viaggiatori che vanno per i loro affari a Tricarico preferiscono tornare la sera fino a Grassano piuttosto che fermarsi nella misera taverna di quella sede vescovile. Erano dunque passati da me viaggiatori di commercio pugliesi, mercanti di pere napoletani, carrettieri, conducenti di automobili, le genti più diverse. Una notte, era già tardi, e io ero già a letto, sentii il rombo inabituale di una motocicletta e mi vidi capitare in camera il motociclista con il casco coperto di polvere. Era il barone Nicola Rotunno di Avellino, uno dei più ricchi proprietari della provincia. Possedeva, con un suo fratello avvocato, terre sconfinate a Grassano, a Tricarico, a Grottole, in non so quanti altri comuni del Materese. E girava in motocicletta per raccogliere dai fattori i denari dei raccolti ed esigere dai contadini il pagamento dei debiti, di quei debiti che essi contraggono nel corso dell'anno per poter campare e che di solito, superando l'intero guadagno dell'annata, si accumulano ad inghiottire ogni speranza di stagione benigna. Il barone, un giovane magro sbarbato, con gli occhiali a pince-nez, aveva fama a Grassano di essere, come suo fratello, particolarmente spietato nei suoi interessi, capace di cacciare un contadino per un debito di poche lire, astuto negli affari e poco chiaro, abile nello scegliere dei fattori devoti al suo interesse, durissimo con tutti. Era un uomo di chiesa e portava all'occhiello della giacchetta, invece del solito distintivo fascista, quello rotondo dell'Azione Cattolica. Con con me fu gentilissimo. Saputo che io, suo vicino di letto, ero un confinato, si offerse subito di farmi liberare, cosa per lui facilissima, mi disse, perché era amico d'una amica carissima del senatore Bocchini, capo della polizia, una signora come lui di Avellino e come lui particolarmente devota a una Madonna che si adora in un celebre santuario nei dintorni di quella città. Il discorso cadde così sui santuari e sui santi e sul San Rocco di Tolve, un santo di cui io stesso ho potuto conoscere per prove e favori personali la particolare virtù. Tolve è un villaggio vicino a Potenza e c'era stato in quei giorni un pellegrinaggio come tutti gli anni al principio di agosto. Uomini, donne, bambini vi concorrono da tutte le province circostanti a piedi o sugli asini, camminando il giorno e la notte. San Rocco li aspetta, librato nell'aria, sopra la chiesa. Tolve è mia e io la proteggo, dice San Rocco nella stampa popolare che lo rappresenta, vestito di marrone, con la sua aureola d'oro nel cielo azzurro del paese. Ma anche il santo di Grassano è un buon santo, un San Maurizio splendente di colori laggiù nella chiesa, armato di tutto punto, un glorioso guerriero di cartapesta di quelli che si fanno ancora oggi con tanta arte a Bari. Da San Maurizio passiamo al suo compagno di guerra e di beatitudine e ad altri santi, e a Sant'Agostino e alla città di Dio e a discorsi sui Vangeli. Il barone mostrava di essere stupito e compiaciuto della mia competenza su questo argomento, che non supponeva che io potessi conoscere. S'era così fatto molto tardi. Gli occhi mi si chiudevano dal sonno quando vidi il barone rizzarsi improvvisamente sul letto, prendere gli occhiali di sul comodino e inforcarli sul naso, balzare in terra con un salto e avvicinarsi silenzioso al mio letto, avvolto come uno spettro in una lunga camicia da notte bianca che gli scendeva quasi ai piedi nudi. Quando mi fu vicino, fece con la mano un grande segno di croce su di me e disse con voce solenne e commossa: ti benedico in nome di Gesù bambino. Buonanotte. Replicato il segno di croce, tornò fra le lenzuola e spense il lume. Protetto dalla inattesa benedizione del barone possidente, non tardai ad addormentarmi per svegliarmi come sempre all'alba, al suono angelico delle campanelle dei greggi che partivano per i campi e ai clamori diabolici di Prisco, che come ogni mattina chiamava con voci stentoree i figli insonnoliti. La camera della vedova, che dovevo quella notte spartire con l'esattore, era assai più triste di quella di Prisco. Era una stanza buia, lunga e stretta, con una finestrucola in fondo, le pareti dipinte a calce, grigie, sporche e scrostate. C'erano tre lettucci, un catino di ferro smaltato in un angolo con una brocca e un canterano zoppo in faccia ai letti. Una lampadina, sporca di antichi nerumi di mosche, mandava una sbiadita luce giallastra. Le mosche volavano a sciami nel caldo soffocante. La finestra era chiusa perché non entrassero le zanzare, ma ero appena con la testa sul cuscino che già sentivo da tutti i lati il loro sibilo pauroso in quei paesi di malaria. Intanto era arrivato il mio compagno. Aveva attaccato il berretto a un chiodo in faccia al mio letto, posato l'astuccio del clarinetto sul canterano e si era spogliato. Gli chiesi come andava il suo lavoro qui a Gagliano. Male, mi disse. Oggi sono venuto per fare dei pignoramenti. Le tasse non le pagano. Si viene a pignorare e non si trova nulla. Sono stato in tre case, ma mobili non ne hanno. Non c'è che il letto e quello non si può prendere. Dovrò accontentarmi di una capra o di qualche piccione. Non c'è neppure da pagare le spese della trasferta. Domattina devo andare da due altri, speriamo mi vada meglio. Ma è una miseria. I contadini non vogliono pagare. Sono quasi tutti proprietari qui a Gagliano. Hanno tutti il loro piccolo pezzo di terra, magari lontano dal paese, a 2 o 3 ore di strada. E certe volte sì, è terra cattiva e rende poco. Le tasse sono forti, per dire la verità. Ma questo non mi riguarda, non siamo noi che le mettiamo, noi dobbiamo soltanto farle pagare. E lei sa come sono i contadini. Per loro tutte le annate sono cattive. Sono pieni di debiti, hanno la malaria, non hanno da mangiare, ma saremmo freschi se dovessimo dar retta a loro. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Non pagano? E dobbiamo accontentarci di portar via quel poco che si trova, roba che non val nulla. Certe volte ho dovuto fare il viaggio per qualche bottiglia d'olio, un po' di farina. E ancora ci guardano male, con odio. A Missanello, 2 anni fa, hanno anche sparato. È un brutto mestiere. Ma bisogna pur vivere. Vedevo che l'argomento lo disgustava. E per confortarlo portai il discorso sulla musica. Sperava di poter scrivere delle canzonette, di vincere qualche concorso, qualche premio. In questo caso avrebbe lasciato l'esattoria. Intanto suonava il clarinetto nella banda di Stigliano. E chiesi com'erano le canzoni popolari di queste parti e se avesse potuto insegnarmene qualcuna e magari, poiché egli era così abile, trascrivermela. Mi disse se volevo la musica di Faccetta Nero o di qualche altra canzonetta in voga. No, non era questo. Volevo le canzoni dei contadini. Rimase un po' a riflettere, come ad un argomento per lui nuovo, a cui non avesse mai pensato. Scrivermi le note di una canzone avrebbe potuto, cercandole ad una sul clarinetto, ma non gli veniva fatto di ricordarsi di nessuna canzone cantata dai contadini. A Viggiano cantavano e suonavano, ma da queste parti no. C'era forse qualche canto di chiesa, si sarebbe informato. Altro non conosceva. Anch'io avevo notato a Grassano la stessa cosa. Nel mattino, quando partono per il lavoro, nel meriggio sotto il sole, nella sera, nelle lunghe file nere che tornano con gli asini e le capre, verso le case sul monte, nessuna voce rompe il silenzio della terra. Soltanto una volta avevo sentito verso il basento il lamento di un flauto di canna, a cui un altro flauto rispondeva dalla collina di faccia. Erano 2 pastori forestieri che andavano col gregge di paese in paese e si richiamavano di lontano. I contadini non cantano. Il mio compagno non rispondeva più. Sentivo il suo respiro regolare e fischiante nel ronzio continuato delle mosche eccitate dal caldo. Un tenue chiarore veniva attraverso i vetri chiusi da un cielo pallido per una falce di luna. Sul muro, in faccia a me, distinguevo a quel barlume, sul berretto appeso al chiodo, le grandi lettere rosse U E. Le fissavo nell'oscurità finché mi si chiusero gli occhi e mi addormentai.